Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che cosa ne pensa della proposta di eliminare le slot machine dai tabaccai e dagli esercizi commerciali? Io sono d'accordo, anche perché noi non le teniamo più da parecchi anni, perché portavano purtroppo gente che sono arrivate anche al punto di minacciarci di morte addirittura, perché ritenevano che la macchinetta gli rubasse i soldi. Però io non ero responsabile, quindi ho preferito andare in polizia a fare una denuncia di queste persone che mi minacciavano. Io sarei favorevole a farle togliere, perché comunque rovina tante persone. E così lo Stato non guadagna più soldi sul gioco d'azzardo. Quindi lei pensa che sia più lo Stato a guadagnarci o chi ha le macchinette? Ma io penso che sia lo Stato a guadagnarle, molto. Penso che togliendo le macchinette noi lavoriamo un po' di più rispetto a prima, ma avendo le macchinette qua. Allora, io sono molto d'accordo. La questione è controversa e varia a seconda del variare del punto di vista. La notizia che il Premier Renzi, tra tante cose che annuncia, ha annunciato in un giornale dedicato al sociale, che è Vita, che stanno mettendo a punto come governo una misura per togliere le slot machine dalle tabaccherie e dagli esercizi commerciali. Qualcuno di questo brinda champagne, dice: finalmente abbiamo tolto l'oggetto della tentazione dai luoghi più frequentati, e il gioco viene paragonato a qualsiasi altro tipo di vizio deleterio e distruttivo dell'umanità, come il fumo, come il sesso compulsivo, come altri vizi che distruggono l'umanità. Altri dicono: beh sì, serve poco allontanarle, perché tanto ormai chi è abituato a lasciare lì la parte più cospicua dei propri proventi, le proprie risorse, o ne è attratto, come ormai è attratto un drogato dal pusher, difficilmente cambierà qualcosa. Io oggi vorrei analizzare innanzitutto cosa c'è di concreto, di fattibile, e cosa già si sta accadendo in Italia rispetto a questa proposta di Renzi. Già c'è una corrente concreta, reale e operativa, per cui si è capito che quella che sembrava un grande momento di liberalità in realtà creava dei problemi, e quindi si comincia a pensare che questi oggetti che sembrano così facilmente aggredire le persone più deboli, meno difese dalla possibilità di rovinarcisi sopra, allontanandole probabilmente si evitano dei problemi. Sì, è diciamo anche in Parlamento si sta parlando di una concreta proposta contro il gioco d'azzardo, considerando una patologia, quindi si diventa patologico, si entra tutto in un discorso di assistenza necessaria sanitaria. La persona gioca con le slot machine è paragonabile a un tossicodipendente, è paragonabile a un altro tipo di dipendenza che va curata con metodi medici, clinici e scientificamente condivisibili. Questa è una domanda che allarga ancora di più il tema. Ma quello che vorrei sapere da oggi, dalle persone che mi ascoltano, qual è stato al momento il vostro rapporto con questa novità che da qualche anno sembra ormai campeggiare al centro dei luoghi più frequentati, come appunto le tabaccherie, i luoghi di incontro, le ricevitorie, il fatto che ci sia la slot machine lì in un angolo, questo totem che a persone come me che non ne trova nessuna attrazione è semplicemente un oggetto che fa lucette e rumori, non lo vedo differente dalla reclame di una qualsiasi bibita o da un espositore di merendine, per me è la stessa cosa, per qualcuno evidentemente è un'attrazione fatale. 800240024, tra un istante. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, cronache meridiane. Giocano Super Enalotto, il Lotto e i gratta e vinci da 20, di qui di là. È la malattia del giocare, e poi dopo guardano i miei prezzi, oddio no. Cioè, si comprano la mela bacata, però devono giocare. Una signora che si è rovinata con il gioco. Ha giocato gratta e vinci, Lotto, pensione intera, affitto di casa, e quindi ha mandato sul lastrico la propria famiglia. Quando noi vediamo una slot machine siamo convinti che all'interno di questa ci sia soltanto una macchina, quindi soltanto un cuore che pulsa rivolto all'amministrazione finanziaria e dia quelle informazioni. Ce ne potrebbero essere due. I proventi del gioco d'azzardo nel nostro paese coprono il 4% del PIL nazionale. L'anno scorso sono stati giocati 80 miliardi dagli italiani. Noi non dobbiamo giocare tanto per vincere poco. Noi dobbiamo 800240024, abbiamo fatto una somma di quelle che sono le notizie, le voci, le opinioni, i punti di vista che girano attorno al gioco d'azzardo. È qualcosa di abbastanza nuovo perché appartiene a una generazione non proprio giovanissima. Se ne parla da quando c'è stata una liberalizzazione nei confronti di questi sistemi. Prima di slot machine se ne parlava soltanto quando si andava al casinò. L'entrata dei casinò, c'era questa visione non certo legata agli stereotipi più romantici di tantissimi vecchietti, vecchiette, gente un po' scalcinata, attaccata alle slot machine. Poi abbiamo cominciato a vederle nei luoghi di nostra abituale frequentazione. Lentamente siamo assuefatti a questo tipo di visione, ma non per tutti è soltanto un guardare, non per tutti è soltanto guardare un oggetto, per qualcuno è stato un cambio di vita abbastanza consistente. Iniziamo con una testimonianza. Marcello, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per avermi invitato. Vediamo se riusciamo a confrontare i nostri diversi punti di vista. Per me vedere una slot machine assolutamente non dà nessun tipo di fascino, di attrazione. Mi può piacere l'oggetto, me ne vorrei avere una in casa magari per usarla come illuminazione, fine. Per lei invece cosa significava? Guardi, io per anni, esattamente come lei, non ho mai nutrito nessun interesse per questo oggetto luminoso, per anni. Dopodiché improvvisamente, casualmente, si mette dentro il primo euro e il resto del caffè, una settimana dopo mette dentro un altro euro ed è un'esplosione magari ritardata negli anni, ma il percorso è identico per tutti. Per ecco, cosa accade? No, però mi spieghi, mette il primo euro, il secondo euro, gliene torna indietro qualcosa, comincia a vincere qualcosa oppure no? All'inizio onestamente ancora una dimensione di gioco, io ci terrei a sottolineare che non è un gioco, ma è gioco d'azzardo, che è un concetto completamente diverso. All'inizio, ripeto, è un passatempo di due minuti, si beve il caffè, si mette la monetina, si fuma la sigaretta e si va a lavorare, e poi prende piede fino a quando, a seconda dei personaggi in questione, ma mediamente ci si impiega pochi anni, si è completamente presi da questo oggetto. Mi spieghi bene l'escalation, perché è difficile capirlo. Sì. Per le persone, il giorno dopo una settimana ci si mette qualche soldo in più, non è soltanto il resto del caffè, si rimane lì. Io posso parlare tranquillamente di mesi, dopo puoi giocare un giorno un euro, dopo 15 giorni magari giochi 2 euro, dopo un mese provi il 5 euro, perché incomincia a pensare di aver capito il meccanismo del gioco. Ti illude come una donna che ti illude di grandi amori, poi in realtà non è così. Esattamente, okay. C'è un motivo di fascinazione dietro, inutile. Assolutamente sì, ma è anche un insieme di colori, di suoni. È il fascino, assolutamente. Ne viene sensualmente preso da questa macchina. È una cosa lenta, ovviamente, ma a un certo punto si impadronisce di te. E quando è impadronita cosa fa però? Quando si è impadronita? È un'escalation, dottore, nel senso che c'è sempre qualche macchina che costa di più. Io non sarei così spaventato dalle macchinette che prendono l'euro. Io sarei spaventato dalle slot machine, le VLT che ci sono nelle sale giochi, che sono identiche a quelle dei casinò. Stesso produttore. E quanto prendono quelle? A 10 euro al colpo. Lei quanto ci ha lasciato in questo giochetto? Questo amore tossico? Questo non sono mai riuscito a quantificare una somma, sicuramente parliamo di centinaia di migliaia di euro e io non sono un grande giocatore. Cioè centinaia di migliaia di euro fatte a monetine? Almeno 100.000 euro di sicurezza. A monetine? Non solo a monetine. Si inizia, vede dottore, una cosa che non è specificata, che si inizia con le monetine, dopodiché si passa di livello, si va a giocare nelle sale giochi dove ci sono le VLT. Le VLT sono delle macchine, sono le macchine da casinò. Noi in Italia abbiamo i casinò in ogni città. E come sono? Quelle un po' più grandi, si vede? Sono quelle un po' più grandi che vanno con le banconote. Giocatore medio mette dentro 300-400 euro, giocatore vero esce con 5.000 euro in tasca per giocare tutte le sante sere, e io ne conosco tanti. Fermola Marcello, resti un po' con noi perché voglio dare degli elementi in più agli ascoltatori. 800 24 00 24, ci sono testimonianze analoghe a quella di Marcello. Chiaramente Marcello l'abbiamo scelto come la persona, la vittima numero uno, ma anche diciamo un pentito che ci racconta se c'è dietro il meccanismo. Poi ci saranno anche delle altre gradualità di fruizione di questi oggetti. Fabio Felici, buongiorno. Buongiorno. Direttore Agimeg, agenzia giornalistica sul mercato del gioco. è uno dei giornalisti, forse giornalista che da anni si occupa in maniera più intensiva e più completa del grande mondo del gioco. Allora, dammi intanto un tuo commento a quello che dice Marcello. Un meccanismo che conosci, questo? Certo, intanto è una cosa che dopo 30 anni di giornalismo gioco mi giunge nuova, che una slot abbia un 90-60-90, cioè le misure classiche di, come dire, per stimolare istinti remoti nell'uomo. Cioè, io la vedo come te, nel senso, per me è una macchina anche d'arredamento e tutto quanto. C'è effettivamente chi esagera, si è esagerato negli anni con la diffusione di queste macchine, che oggi ce ne sono sul territorio oltre 400.000, ci sono oltre 83.000 esercizi commerciali dove sono dentro queste macchine. Effettivamente si è andato al di là di una normale distribuzione. Però, cioè, sul mercato è stata messa una quantità enorme. Esatto, però se ne sono accorti, cioè se ne sono accorti tardi, ma se ne sono accorti, e quindi adesso ci sono varie ordinanze, ci sono vari interventi anche che pensa il governo per ridurre il numero delle macchine e ridurre gli esercizi commerciali. Personalmente non credo che sia il fatto di ridurre gli esercizi commerciali, io sono sempre più per un'educazione, una formazione, un negozio certificato. Ecco, questo signore che giocava in un bar forse o in una tabaccheria, se l'esercente fosse è stato preparato a prevenire il meccanismo della ludopatia, se avesse seguito un corso, avesse esposto una certificazione, forse si sarebbe intervenuto sul momento e si sarebbe evitato il problema. Però, Fabio, concretamente pensi sia possibile che un barista possa prendersi l'onere di andare a dire a uno che gioca: guarda, smetti che ti fa male? Cioè, un ragazzo è stato massacrato a calci e pugni nella metropolitana che aveva detto uno: guarda, non si può fumare qua lo dentro. Lo so, però qui andiamo sul senso di responsabilità. Questo sta in questo. Io vedere, io avessi un negozio, vedessi un giocatore che si rovina per il gioco, interverrei, anche perché il giocatore rovinato poi fa male a tutti, quindi al giocatore stesso, all'esercente. Quindi secondo me educare anche proprio sul posto, sul territorio, in prima linea, educare chi sta in prima linea sarebbe secondo me il passo più importante. Sentiamo Marcello. Marcello, cosa ne dice di quello che dice Fabio Felici? Cioè, un barista che ha una sorta di patente in più, che con l'occhio clinico, dopo un po' di mesi che ti vede stare un po' troppo tempo, dice: guarda caro, basta. Ti può far, come dire, uno che chiede una bottiglia sul banco, dice: no, guarda, la bottiglia non te la do, dai, tornatene a casa, è ora, è meglio. Lo vede possibile, realizzabile? Guarda, il suo interlocutore in linea teorica ha perfettamente ragione. Di fatto, e anche per motivi professionali mi relaziono con i baristi, ormai stanno in piedi anche per queste macchinette. Io parlo tanto con i baristi per motivi professionali, ripeto, e guai se non avessero gli introiti delle macchinette. Con gli introiti delle macchinette riescono a pagarsi l'affitto, il personale. Ma perché hanno una percentuale? Fabio Felice. Vanno assolutamente a percentuale, c'è una percentuale fissa che varia poi a seconda del tipo di gioco, però sì, vanno a una percentuale fissa, ed è vero quello che sta dicendo il signore. Cioè, ormai le slot, come tutti i giochi, sono diventati un elemento fondamentale nell'economia del singolo negozio. Questo però non esclude che si possa avere un'opera di controllo. Marcello, quindi il barista con cui lei aveva rapporti era tutto contento se lei giocava lì, faccia parte del suo business, diciamolo chiaro. Assolutamente sì. Ma io vorrei precisare una cosa: un conto sono i baristi, le tabaccherie, un conto sono le sala giochi, che sono quelle veramente devastanti. Voi ingiustamente parlate del bar tabacchi, il vero fenomeno nelle sale giochi. Il vero fenomeno distruttivo nelle sale giochi. Allora, fermo un attimo, Marcello. Fabio Felici, come è regolamentato, diciamo, il mercato delle sale giochi? Le sale giochi sono di fatto dei mini casinò, dove ci sono queste macchine VLT. È vero che si possono giocare 10 euro, 50 euro, ma non è il costo della partita. Il costo della partita è anche di un euro soltanto, quindi, voglio dire, ci gioca più volte. Però quando uno entra in una sala giochi, è consapevole che sta entrando in una sala giochi, in un bar, in un altro esercizio commerciale. Magari uno entra a prendersi il caffè, potrebbe essere attratto da una macchina. È come quando uno va al casino, non è che ci va a prendere il caffè, appunto, chiaro. Appunto, quindi quando uno entra è consapevole di quello che trova, il governo vuole intervenire su quelli che sono, diciamo, inconsapevoli. È lì che misure ci possono essere? Niente, se ormai abbiamo liberalizzato che possono esistere dei mini casinò, quello sono. I mini casinò, effettivamente, io ho una passione per il gioco, vado a farmi una partita a poker elettronica, vado a farmi una partita alla roulette, vado a farmi una slot machine, una videolottery in un negozio, in un casinò controllato dove non entrano i minori, dove ci sono telecamere, dove ci sono sorveglianza. Sì. Quindi è come entrare in un casinò. Cioè, quindi cosa ne possono fare, come con le campagne che mettono le budella putrefatte sui pacchetti di sigarette, scrive sul casino: qui ci lascia le mutande, sta attento, ecco, qualcosa del genere. Marcello, ma il proibizionismo non funziona. Guardi, ma non funziona, no? Guardi, ripeto, il suo interlocutore ha perfettamente ragione, a parte una piccola particolarità: non è un gioco, è gambling. Lui dice: voglio andare a giocare. No, voglio andare a scommettere i miei soldi, che è un concetto completamente diverso, perché il gioco è libero, uno può iniziare, smettere, può decidere di fermarsi. Quando diventa gambling, quando si trasforma in ludopatia, non sei più capace di fermarti. Io ho visto tanti miei compagni di sventure tagliare carte di credito, picchiare, bruciare le macchine, sputare sulle macchine, voi non avete minimamente idea dell'ambiente delle sale giochi. Una proposta concreta però potrei magari, in base alla mia purtroppo lunga esperienza, farla. A me piacerebbe che qualcuno, qualche parlamentare o anche qualche movimento, proponesse questa soluzione. La maggior parte dei giocatori vogliono smettere ma non ce la fanno. Tutti noi abbiamo in tasca una tessera sanitaria. Dal punto di vista tecnologico non dovrebbe essere così difficile andare all'ASL e dire, come nei libri neri del casinò, io non voglio più giocare. Si segna sul mio microchip della mia tessera sanitaria la mia volontà di non giocare più alle slot machine, tutte queste benedette macchine, dopodiché ogni macchina per attivare la giocata deve inserire la tessera sanitaria. Lei dice, mi faccio marcare come ludopata. Quindi, assolutamente sì. Sì, però lei capisce, quando c'ha la scimmia sulla... piuttosto si vende la moglie per avere una tessera sanitaria per entrare. Poi c'è il gioco online che potrebbe comunque darsi da fare. Fermiamoci un istante. Resti, Marcello, è molto interessante questo dibattito fra un giocatore che conosce il mercato e un esperto del mercato. Secondo me è molto proficuo a capire meglio il problema. A tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Melog, cronache meridiane. 800240024, parliamo di gioco, parliamo di ludopatia, parliamo di regolamenti. Abbiamo qualche ascoltatore in onda, abbiamo Marcello che ci porta la sua testimonianza di giocatore che si sta rovinando con le slot machine. Sentiamo intanto Antonio. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io sono un operatore nel settore del gioco d'azzardo, faccio questo lavoro ormai da 35 anni, prima era intrattenimento, poi con la legge 425 è diventato un gioco con piccoli premi in natura, che poi, Striscia Notizia, fece un servizio che tramutavano i ticket, diciamo la vincita in denaro, e questo era chiaramente illegale. Ma lì è accaduto tutto, poi ci ha messo le mani lo Stato e il gioco è diventato gioco d'azzardo. Adesso, premesso che della ludopatia... Ecco, scusi Antonio, per spiegare meglio, operatore significa piazza le macchinette, le rappresenta? Io nasco come... eravamo noleggiatori di apparecchi da intrattenimento, quindi il flipper, il videogioco, il calcio balilla, il jukebox, era il nostro settore. Poi, successivamente alla crisi del settore, nel 95 fu emanata una legge, la 425, i Rebecchi se non ricordo male, del PD tra l'altro, dove si incentivava il gioco da intrattenimento con dei piccoli premi in natura, delle vincite in natura. Praticamente un giocatore raggiungeva un certo punteggio, la macchina erogava un ticket, un piccolo scontrino con il quale potevi acquistare, che ne so, il panettone, il corone. Ah, come i punteggi dei flipper una volta nei bar, queste cose del genere. Esatto, di quelli stiamo parlando. E regalavano un panettone. A suo tempo la cosa fece scandalo perché era d'uso che chi vinceva, che ne so, 10 ticket, erano 50.000 lire a quei tempi, e se li faceva cambiare dal barista, perché ci facevo con 50.000 lire di panettone. E quella cosa lì non si poteva fare perché la legge prevedeva che non fossero convertibili in denaro, quindi Striscia la Notizia fece dei servizi e questa cosa dovette finire. Nel 2004 vennero introdotte le slot machine. Le slot machine nascono come giochi d'azzardo, sono previsti nell'articolo 100. Quello sono. Esatto, uno però, può comprare un vibratore per fare la maionese, chiaro. Perfetto, però qual è stato il problema? Che contestualmente all'introduzione delle slot machine, il settore dell'intrattenimento è stato penalizzato, ma non dal mercato, ma proprio dall'organizzazione dello Stato che prevedeva l'introduzione di questo tipo di apparecchi, perché lo Stato, attraverso il ministro Tremonti, aveva capito che da questi apparecchi usciva parecchio grano. E quindi è diventato legale. Ecco, ma lei alla sintesi ci ha fatto un ottimo excursus del passaggio dal calcio balilla alla slot machine. Secondo lei dice che tutto questo nasconde qualcos'altro? Cosa nasconde? Allora, no, perché era arrivato all'inizio. Perché? Perché lo Stato, per controllare il settore dell'automatico, introdusse la figura del concessionario, che erano 10 figure di concessionari, che erano delle RTI, dei raggruppamenti temporanei di impresa. Sì, andiamo al punto, sì. Stringiamo. Allora, il punto è questo, che togliendo le slot machine a bar e tabacchi si toglie l'80% degli apparecchi installati in Italia, quindi stiamo parlando di, su 400.000, per fare conto paro, 300.000 apparecchi. Questi 300.000 apparecchi devono essere ricollocati nelle sale. Nelle sale VLT, cioè si liberano degli spazi per creare le sale VLT. Ma che ci fanno con le macchinette? Quelle da pochi spiccioli? Le dobbiamo buttare. Non valgono più niente. Quelle valevano se messe nei bar, messe nella VLT, che servono. Esatto, non servono più a niente. No, infatti, potrei continuare con paragoni calzanti, ma... 100.000 persone che vanno a casa, eh? Quello. Ma la cosa grave qual è? E glielo spiego, che la ludopatia non interessa una bene amata a nessuno, perché se si va a leggere il provvedimento, e questa d'opera del sottosegretario Baretta al Ministero delle Finanze, è previsto che la legge Balduzzi, cioè quella che contrasterebbe la ludopatia, che prevede che le nuove sale debbano rispettare le distanze da luoghi sensibili, non vale più. Domani una sala VLT la possiamo aprire pure sotto una scuola media o un asilo nido, quello davanti a un ospedale. Fermo lì, se no mettiamo troppa carne al fuoco. Fabio Felici, ricordo, direttore Agimeg, che è l'agenzia giornalistica sul mercato del gioco. Fammi capire bene il senso di quello che dice questo ascoltatore. Ci ha spiegato com'è l'excursus, mi sembra molto chiaro. Lui dice: se passa una legge che toglie le slot machine dai bar, queste vanno buttate al macero, cioè vanno buttate via, rottamate, chi se le piglia più. E sul discorso dei luoghi sensibili ci sono varie proposte di legge. Il luogo sensibile è tutto, se va dal cimitero alla scuola, sì, alla banca, al banco, ma deve dicendo. Fammi capire un po' come funziona. Beh, allora funziona in questo modo, che ci sono regolamenti comunali, noi abbiamo un regolamento a macchia di leopardo, ed è questo che il governo sta cercando di intervenire. Cercando un accordo. Ogni comune fa come vuole. Ogni comune si è arrivato, non so, al paradosso di Bergamo, dove si può giocare solo in tre fasce orarie: 7-9, 12-14 e 19-21. Poi è vietato tutto, ad eccezione del lotto e superlotto, altri giochi. E qual è il razionale però di questo? La razionalità non c'è, perché ora tu mi devi spiegare: mettere una sala giochi non può stare a 100 metri, a 300 metri da un cimitero, da uno stabilimento, da un banco. Ma cimitero perché? Che c'entrano i morti? Quello vorrei capire anch'io. Ma quello che rischio, cioè, che sono gli unici che non rischiano. Quello che dice il sottosegretario Baretta, che si rischia di creare quartieri a luci rosse in periferia, ghettizzare il gioco, è un rischio molto grosso se questi regolamenti continuano a essere così. Infatti credo poi che ci si attacca intorno di tutto, perché laddove c'è lo spacciatore, c'è lo strozzino, c'è tutto intorno, capito? Ma il problema non è spostarlo, chi è malato e assolutamente deve essere curato e tutto quanto, non credo che gli faccia differenze 500 metri, 1000 metri. Tra l'altro dicevi giustamente te, c'è anche l'online. Io non mi fai giocare alle slot sul territorio, gioco online col mio telefonino, quindi il problema non si bypassa. Ma che discorso, la proposta di Marcello, diciamo, mettiamo la scheda sanitaria segnata da quelli che sono, ammettono di essere ludopati, figli la ruberebbero ai padri, le mogli le ruberebbero ai mariti, ci sarebbe lo spaccio delle schede telefoniche, sanitarie. Ci sono centri di ascolto, ci sono centri per la cura di qualsiasi, come dire, dipendenza. Quindi se uno è consapevole e vuole essere curato, c'è il modo per farlo. Tra l'altro diamo una dimensione del fenomeno, perché studi sulla ludopatia certi non ce ne sono. C'è chi dice 60.000, chi 600.000, chi 3 milioni, però non c'è uno studio esatto. Quindi capire oggi su che fenomeno parliamo, su 30 milioni di giocatori, diventa anche un po' complicato. Non c'è uno studio scientifico sulla ludopatia? Ce ne sono diversi, ma con numeri d'alcuna forbice talmente ampia che non si riesce a capire dove sia la verità, se i ludopati siano pochi, siano tanti o siano tantissimi. Ma forse la prima cosa da fare sarebbe fare uno studio di prevalenza secondo dei protocolli che ormai sono provati e testati in tutto il mondo, vedere qual è veramente la prevalenza della ludopatia in Italia. Irina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, stavo ascoltando tutti voi. Volevo intervenire perché la questione mi è ben chiara e ben ho presente al cuore, perché purtroppo, per fortuna, mi sono laureata in psicologia e per 2 anni di studi, durante gli studi, per permettere pagamento, diciamo, ho dovuto lavorare, ho avuto il modo di lavorare in una delle sale da giochi come commessa, ma poi come manager, perciò la questione conosco bene dall'interno. Mi è capitato di vedere le persone di ogni genere, nel senso che sono gli uomini, le donne, ma anche quelli poveri, ma anche compreso i calciatori, quelli che sono molto ricchi, che in un giorno svuotano le tasche, vendono le macchine, vendono le case. È tutto sulle macchinette, stiamo parlando ancora sempre di macchinette. Sì. Sì, perché come ha spiegato anche un vostro ascoltatore, le macchinette ci sono diverse. Le macchinette, quelle che prendono banconote, sono proprio fatali, che rovinano sia le famiglie, che rovinano tutto. Perché una volta, quando le persone cominciano a giocare, che mettono quelli 10 centesimi... Senta Irina, la sala giochi quanto guadagna in un giorno per gestire questo mercato, visto che lei ha avuto esperienza, l'ha frequentata? Allora... dipende dalla sala giochi. Facciamo una media, una media. Diciamo così, la nostra, io sto parlando dell'Ucraina, sì, è ben chiaro, non dell'Italia, perché sono qui da poco. Allora è un'altra situazione, però. Un po', però qui si parla dell'aspetto umano. Voglio dire questo, che sono qui da 7 anni, quando sono venuta qui in Italia le sale giochi erano molto di meno, che mi faceva piacere, però man mano che l'economia sta precipitando le sale giochi aumentano come quantità. Cioè più c'è crisi più aumentano le sale giochi. Esatto, questo fenomeno io vedo che si osserva moltissimo. Tanto è vero, è strano, che io mi immaginerei che aumenterebbero i terreni da dissodare, non lo so, invece aumentano le sale giochi. Aumentano, esatto, seguite questo fattore, più aumenta la crisi, più aumentano le sale giochi. Fermerina, Alessandro, buongiorno, fermo un attimo, resta in ascolto, Alessandro. Buongiorno Nicoletti, io ho lavorato un po' come l'ascoltatrice che ha appena parlato, ho lavorato in una grossa agenzia scommesse, non so se posso dire il nome della... Se ci ha lavorato non è un delitto, dico quello che vuole. Come sportellista, non come manager, però come sportellista, sempre per guadagnare qualche soldino, metterlo in università. Quello che ho visto è che al di là del fatto che le persone che erano sempre lì tutto il giorno, faccia conto che l'orario invernale era dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, sono sempre le stesse che vengono e rivengono, continuano a tornare sempre le stesse persone. Noi lì allora facevamo scommesse di ippica, sportive, virtuali, e c'era anche la sala VLT. Sì, però è un'altra cosa, fermiamoci, no, allarghiamo troppo. Però mi dica la sua idea riguardo la mia idea al macchinetto. Era le persone che erano lì, erano... secondo me estremamente facilmente assimilabile ai drogati, perché c'erano sia le persone che passavano tutta la giornata, e dico seriamente tutta la giornata, da quando aprivamo a quando chiudevamo nella saletta VLT, se non c'erano anche quelli che, mentre aspettavano che partisse una corsa di ippica, si andavano a fare la giocatina. Se non stavano scommettendo una parte, facevano la giocatina. Ecco, ma lei cosa... poi lasciamo la linea e poi concludiamo con Fabio Felici dopo la pausa. Lo so, lei che impressione si fa? Che è un fenomeno diffusissimo o un fenomeno che interessa un campione, non dico ristretto, ma perlomeno ben identificabile? Secondo me si tratta di persone, da quello che ho visto si tratta di persone avanti nell'età, erano pochi giovani che venivano lì. Il giovane che veniva lì faceva la scommessina sulla partita del sabato e della domenica e poi tornava a casa. Erano tanti gli anziani che stavano lì, ma veramente tutto il giorno, si facevano fuori le pensioni. E diventavano anche cattivi, era proprio come una persona che assume droga. Fermo lì. Marcello, in una battuta, si sente un drogato lei? Noi siamo ludopatici, siamo dipendenti, assolutamente sì. Quindi lei è tossico da questo punto? Assolutamente sì. Fermo un attimo, resti lì, poi le domanderò cosa farà per uscire. Ci sentiamo fra un istante. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, avete ancora una tranche di trasmissione per dare il vostro contributo. Stiamo parlando di un tema abbastanza discusso, ma anche abbastanza discutibile, sul quale ancora io sono sempre per la ricerca delle soluzioni che diano un margine di certezza. Vorrei sapere esattamente perché non viene fatto uno studio di prevalenza in Italia, per avere un dato concreto, reale, accertato, sui quali scientificamente si può operare sulle soluzioni riguardo alla ludopatia dei nostri conterranei che perdono giornate davanti alle slot machine. Allora, Fabio Felici, vediamo di fare un punto. Ricordo direttore Agimeg, che è un'agenzia giornalistica sul mercato del gioco. Delle cose che abbiamo detto, forse dobbiamo cominciare a fare, a scremare un po' e a dare dei dati rispetto a quello che è. Cosa si sta muovendo? Allora, di reale, di concreto. Innanzitutto permettimi di, come dire, di intervenire sul luogo comune. Con la crisi il gioco si gioca di meno, non si gioca di più, e questi sono dati dei monopoli di Stato. Quindi sta calando sono 5 anni che la spesa degli italiani per il gioco cala, quindi i soldi non ci sono neanche per il gioco, quindi non è che si toglie qualche cosa. Le pensioni finiscono. Esatto, quindi non, questo è un luogo comune da sfatare. Sì, ma dobbiamo rettificare, su Bergamo le 3 fasce orarie sono di astensione, non di gioco. Esattamente, è sempre anche lì una ghettizzazione oraria del gioco. Comunque sì, c'è una limitazione di gioco. Esatto, qui l'intervento da fare è diminuzione, senza esagerare. Ricordiamoci che stiamo parlando di imprese. Quando si parla poi di gioco d'azzardo, io vorrei una piccola precisazione. Queste sono imprese che guadagnano con la loro attività, ma comunque qualsiasi cosa. Se io vado a comprare una bottiglia di latte e penso che la pago il costo che è vero, no, c'è il guadagno delle varie aziende che intervengono sul gioco. È chiaro che è un gioco dove le aziende guadagnano, lo Stato guadagna, ma come in tutte le attività imprenditoriali. Quindi si sa che il giocatore all'inizio è perdente, però ci sono tanti che vincono, c'è tutta un'altra fascia, quindi non si... Ma non con le slot machine. Ma le slot machine sono anche degli apparecchi che hanno un payout, cioè quella somma che torna al giocatore molto alta. Per esempio le slot, il 75% del giocato circa torna nelle tasche dei giocatori rispetto ad altri giochi che danno payout molto più bassi. Quindi alla fine qualcuno vince. Qualcuno vince, qualcuno i soldi, cioè voglio dire, non è tutto così dispersione allo stato puro, c'è un ritorno importante. Sì, ripeto, per uno che vince 50 si rovina. Non stiamo parlando di un istituto di beneficenza. Tra l'altro ricordiamoci che le società sono anche intervenute anche recentemente sul terremoto. Ma c'è una legge che dice ogni tante giocate tu devi far vincere. Oppure sì, ci sono dei payout. Se no sarebbe una ghigliottina, è un gioco. Sono per legge. Le macchinette, il 75% deve tornare nelle tasche dei giocatori ogni tot partite. Quindi quella è una cifra stabilita. Però c'è un meccanismo. Però bisogna capire chi ha la botta di culo di beccarsi i soldi degli altri. Esattamente. Quello fatto. No, mi scrivono vari ascoltatori per specificare una cosa che non ho avuto la sensibilità sufficiente a cogliere. Il cimitero viene considerato zona sensibile perché le persone che vanno a ricordare, elaborare il lutto di una persona scomparsa sono particolarmente fragili, quindi un vedovo che esce da un cimitero nella disperazione può rovinarsi. Liana, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Senta, volevo partecipare perché a me è successo 3 anni fa. Mi è morto un figlio dopodiché io ho incominciato a avere questo momento di debolezza. Ecco, mi conferma che il lutto ti rende debole rispetto a quello. Sì, confermo veramente che il lutto rende deboli, perché quell'attimo che tu, io non parlo di slot machine, parlo di gratta e vinci, ti dà quel momento di non pensare, di non... Di ma, non anche, ma anche di, momento, di adrenalina, un momento di adrenalina, uno mentre gratta pensa forse ce la faccio. E sono arrivata ad un punto che addirittura che la tabaccaia è una mia amica, mi dice ma prendi, ti lascio qui da pagare, paghi dopo, io... Ah, giocatrice a credito, terribile, sì. Eh sì, certo, sì. Sì, hai capito, ed io prendevo, a un certo punto gli ho detto, dopo un po' di mesi, tirami, fammi il conto perché io voglio sapere. È arrivata con un conto, non le dico, lasciamo stare la cifra. Ma me la dica, così capisco, mi rendo conto. Ecco, e allora ho dovuto dirlo a mio marito, perché lui sospettava già questo, perché vedeva il conto che scendeva. E mi dice, dobbiamo andare da uno specialista. Quanto sarà giocata in Gratto e Vinci? Me lo faccia capire, me lo dica, esattamente la cifra, per capire. Dunque, in totale avrò speso 20.000 euro. Che per lei erano tanti comunque, non erano gioco. Tantissimi, io sono una casalinga, lavora mio marito, lavora bene. 20.000 euro da ridare tutti assieme vuol dire che ne ha fatti parecchi. Tutti i giorni, è come... Come ne è uscita? Come ne è uscita? Il licidio, sono andata da uno psichiatra. Oh, mio marito... Quindi c'è una via d'uscita, ci si cura. Certo che c'è una via d'uscita. sono andata da uno psichiatra, mi ha parlato con mio marito presente, con mia figlia, e io ne sono uscita. Vabbè, è entrata in terapia come si entra in terapia, lo psichiatra è fatto apposta, è un medico che ti aiuta. Certo. Quando hai dei momenti... La terapia è quella di farti capire che non sei stupida. Non è giochi perché sei stupida oppure perché sei poco intelligente. Tu giochi perché sei malata, è una malattia. Fermala Liana. Marcello, ce l'abbiamo dall'inizio della trasmissione, è un giocatore che ci sta raccontando la sua storia. Quello che dice la signora Liana, che per un dolore è entrata nel giro, è mai passato per la sua testa andare da uno psichiatra, da una persona che può... No, guardi che io sono in cura psicologica, certo, è l'unica soluzione. Ma la sta aiutando questa terapia? Assolutamente sì, è una battaglia, guardi, è una battaglia fatta, è una guerra dove alcune volte si vince, altre volte si perde. Per me è una battaglia abbastanza lunga, una guerra abbastanza lunga, però sì, ovviamente io sono in cura psicologica. Secondo lei aiuterebbe il fatto di allontanare le macchinette dai luoghi sensibili, persone come lei o che seguono il suo percorso? Ma guardi, in parte, perché comunque io mi rendo conto che bisogna rispettare anche la libertà d'impresa, il diritto d'impresa. È una droga legale, diamogli un nome reale, è una droga legale, è una droga di Stato. E andrebbe regolamentata più a fondo, secondo me non si risolve spostando il centro del vizio. Fermo là. Per adesso fermiamoci e salutiamoci. Fabio Felici, visto che ci hai dato la parte razionale in tutto questo discorso, ha ragione Marcello? Qual è il tuo punto di vista? Punto di vista che in un paese fatto di squilibri bisognerebbe fare una riforma equilibrata, salvaguardando i ludopati, salvaguardando la parte di criminalità, cioè intervenendo con un pugno più duro sulla criminalità, che non occupasse gli spazi che adesso verranno lasciati liberi, e ovviamente tutelando anche gli interessi erariali e imprenditoriali di chi fa impresa. Quindi ricominciare da capo, fare dei centri per i ludopati che siano ben comunicati, si sappia la gente che è una malattia, stai male, devi curarti. Lavorare non in maniera demagogica, dire le spostiamo, perché spostarle si sposta solo il problema, capito? Quindi il proibizionismo storicamente ha fallito, non serve a niente. La slot non è un diavolo, non è la Madonna di Lourdes, quindi bisogna intervenire in una maniera equilibrata. Io spero solo questo e che non si vada a fare caccia delle streghe dove streghe non ci sono. Io spero solo che non si aprano battaglie ideologiche o di pregiudizio su questo tema. Vedo già i messaggi: vergognatevi, non fate parlare i giocatori. Non è che nascondendo sotto il tappeto quello che ci dà fastidio risolviamo il problema. Ne abbiamo parlato con gli strumenti che avevamo a disposizione. Ringrazio gli ascoltatori, alla prossima.